sei l'ultima ragione che mi resta di far di tutto quello che rimane un sogno reale. Tu sei a chi voglio donare questo cuore, l'ultima donna che io voglio amare, sentire baciare. Tu sei quest'ultima occasione per un uomo che ne ha vissute tante e non si arrende di amare di nuovo. Oh, tu sei quella che in fondo io ho sempre cercato, un mare calmo e a volte anche agitato, con onde maestose. Io so chi sei tu, dove sei nata tu, non hai misteri, sei come me, questi occhi verdi tuoi non sanno fingere, sapranno piangere se perdi me. Sei lo specchio che riflette i miei pensieri, sei dolce e calda come il sol d'aprile, soave e splendente. Tu sei quella che con uno sguardo mi accarezza, anche nei sogni sento la tua brezza, profumi di mare. Splendente, tu sei quella che con uno sguardo mi accarezza, anche nei sogni sento la tua brezza, profumi di mare.